Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, il programma prevede di spiegarvi perché non possiamo parlarvi dell'onorevole Casini, il tutto nell'ambito del problema dei modelli di democrazia e condizioni della comunicazione. In più, non è vero che i cinesi fanno tutto all'incontrario e se ci stiamo, modelli di attrice.